Questo è l'inizio del concerto del primo maggio, sono le 16.30 del primo maggio, se non sbaglio. C'è anche Radio Città Fujiko da qualche parte, adesso vado a vedere se la trovo. E questa invece è la puntata registrata di Coxo Spaziale numero 264, se non mi sbaglio. Perché mi sono ricordato che Fedra non può esserci e io invece in questo momento sono ad Adiacenze, che è questa galleria di Bologna in cui sto presentando il mio progetto Obsolete Shit, che è un progetto editoriale di cui vi abbiamo già parlato la settimana scorsa. Se guardo la finestra, ti vedo da lontano, allungo il braccio e ti prendo la mano. Resteremo ancora insieme, vicinissimi e distanti, mai più e per sempre amanti. Come se non ci fossero i muri, come se non ci fosse di mezzo questo campo di grano che finisce sul fiume, che è fatto per incontrarci senza domande, senza guardarci. Questo è toccato a noi, amarsi di nascosto, forse è sbagliato e forse è giusto. Ci hanno visto fuggire, vi chiedono di noi, vi chiedono di noi, le famiglie annientate, le case incendiate, le spighe e i pochi fiori, vi chiedono di noi. Ricordiamoci di noi, vicinissimi e distanti, mai più e per sempre amanti. Ricordiamoci soltanto, insieme in mezzo al grano, allunga il braccio e dammi la mano. Questa era una canzone enorme di Riccardo Lolli, nuova, che si chiama appunto Per sempre amanti. So che Riccardo Lolli l'ha scritta appositamente per questo evento che si tiene a Cotignola ogni anno il 25 aprile, dove chiedono a un cantautore, o anche forse a tre cantautori, non mi ricordo, di scrivere una canzone appositamente appunto per commemorare il 25 aprile. Dovete sapere che Cotignola è un piccolo paese della Romagna, piuttosto magico, nel senso che c'è una scuola di arti e di mestieri che è lì dagli anni 50 ed è un posto veramente meraviglioso, sembra di essere dentro un film di Fellini con questi bambini che pastrocchiano con la cartapesta, fanno sti pupazzoni eccetera. Di fianco, vicinissimo, c'è questo museo Luigi Varoli, che era uno dei sei giusti di Cotignola, che erano questi cittadini che nascosero un certo numero di famiglie ebraiche durante la seconda guerra. Insomma, Cotignola ha una storia particolare e Inoltre, appunto, c'è questa mostra di pittura enorme, cioè enorme nel senso che ci sono un sacco che succede da 13 anni, si chiama Selvatico, e curata da Massimiliano Fabbri, e che succede appunto tutti gli anni in varie sedi della città, con pittori interessantissimi. Se per caso provate a cercarlo su Google, cercate Selvatico, o anzi cercate la città di Cotignola, e guardate tutto quello che succede in giro, e non ve ne pentirete. Se siete in zona, andatela a visitare, perché veramente merita. Detto questo, la settimana prossima di nuovo io non ci sarò, e forse, se riesco, spedirò una piccola registrazione, perché sarò all'inaugurazione della 58esima Biennale di Venezia. Come sapete, la Biennale d'Arte è la più antica biennale del mondo. Se non sbaglio, la prima è stata nel 1895, e se non sbaglio fu vinta da Giacomo Grosso, o forse sbaglio, comunque Giacomo Grosso fece questo particolare exploit di mostrare queste donne seminude, insomma piacque molto. Ma è tutta una storia un po' particolare che magari poi potrebbe raccontarvi il nostro amico Willy in una delle mattine di Radio Città Fujiko. Invece la 58esima esposizione universale d'arte, intitolata May You Live in Interesting Times, si terrà dall'11 maggio al 24 novembre 2019. Appunto, la settimana prossima c'è la preapertura per la stampa, e anzi io ringrazio il nostro direttore che mi ha permesso di andare come inviato di Radio Città Fujiko l'8, 9, 10 maggio. Dunque, il titolo dice, e sto leggendo il comunicato stampa nel sito labiennale.org, il titolo è un'espressione della lingua inglese a lungo erroneamente attribuita a un'antica maledizione cinese che evoca periodi di incertezza, crisi e disordini, tempi interessanti appunto come quelli che stiamo vivendo. La 58esima esposizione, infatti, dice, cioè, May you live in interesting times, significa che tu possa vivere in tempi interessanti. La 58esima esposizione è curata da Ralph Rugoff, attuale direttore della Hayward Gallery di Londra. Inizia la sua carriera come critico e saggista, tra l'85 e il 2002 scrive numerosi articoli, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla. Ma dovrebbe essere una biennale interessante, sicuramente. Allora, fammi vedere che cosa dice. Sono trascorsi 20 anni dalla presentazione in queste stesse stanze della mia prima mostra, ricordato presidente. Ah, questo è il presidente Baratta. Nella conferenza stampa cui io, ahimè, non sono potuto andare, perché non ho capito bene perché fanno la conferenza stampa a Roma per la Biennale di Venezia anziché a Venezia. Comunque, dopo l'importante riforma della Biennale del 98, posso solo dirvi che sono tutti stati very interesting times, tutti tempi molto interessanti. Iniziamo criticati per la presenza dei padiglioni, ritenuta fuori moda in tempi di cosmopolitismo e globalizzazione. Viviamo tempi nei quali alcuni sospettano che il cosmopolitismo abbia celato una sorta di soft power da parte delle più influenti realtà culturali e politiche. Siamo una mostra internazionale che fin da quegli anni pose la parola aperta e Plateau of Humankind, Plateau dell'umanità, come sottotitolo di tutte le successive biennali. Show. spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale. In questi anni abbiamo aumentato i visitatori, stiamo continuando a parlare della Biennale di Venezia nelle parole di Baratta, il nostro presidente della Paolo Baratta, il presidente della Biennale. Vogliamo offrire un'aperta palestra dove si possano sentire ingaggiati in incontri con le opere e gli artisti, nello scoprire direttamente l'altro da sé che l'opera d'arte offre. Ed effettivamente, infatti l'altro giorno stavo leggendo qualcosa su... qualcuno su Facebook, un artista su Facebook ha scritto: la maggior parte della gente pensa all'arte come delle immagini. Ed effettivamente su questo Instagram non ci aiuta, perché quando noi scorriamo Instagram possiamo vedere appunto un Van Gogh con di fianco la foto di una, che ne so, di qualcuno in bikini sulla spiaggia, e tutto quanto scorre come se fosse tutto allo stesso livello. Ma effettivamente questo altro da sé di cui parla Paolo Baratta è quello che è il cuore dell'arte contemporanea, cioè dell'arte in generale comunque, ovvero il fatto che quello che noi vediamo, cioè che la nostra esperienza visiva dell'arte, non è l'arte. L'arte è tutto quello che c'è attorno e tutto quello che la nostra, cioè questa esperienza visiva ci dà. Da parte sua, Ralph Rugoff ha dichiarato: "May you live in interesting times", il titolo della Biennale, "che tu possa vivere in tempi interessanti", includerà senza dubbio opere d'arte che riflettono sugli aspetti precari della nostra esistenza attuale, fra i quali le molte minacce alle tradizioni fondanti, all'istituzione e alle relazioni dell'ordine post-bellico. Riconosciamo però fin da subito che l'arte non esercita le sue forze nell'ambito della politica. Per esempio, l'arte non può fermare l'avanzata dei movimenti nazionalisti e dei governi autoritari, né può alleviare il tragico destino dei profughi in tutto il pianeta, il cui numero ora corrisponde a quasi l'1% dell'intera popolazione mondiale. In modo indiretto, tuttavia, forse l'arte può offrire una guida che ci aiuti a vivere e pensare in questi tempi interessanti. La Biennale Arte 2019 non avrà un tema di per sé, ma metterà in evidenza un approccio generale al fare arte e una visione della funzione sociale dell'arte che includa sia il piacere che il pensiero critico. La mostra si concentrerà sul lavoro di artisti che mettono in discussione le categorie di pensiero esistenti e ci aprono a una nuova lettura di oggetti e immagini, gesti e situazioni. Un'arte simile nasce dalla propensione a osservare la realtà da più punti di vista, ovvero dal tenere in considerazione nozioni apparentemente contraddittorie e incompatibili, e di destreggiarsi fra modi diversi di interpretare il mondo che ci circonda. Gli artisti, il cui pensiero parte da questi presupposti, sanno dare significati alternativi a ciò che prendiamo come dati di fatto, proponendo mondi modi diversi, mi è venuto in mente fare mondi di un altro grande curatore di una biennale molto interessante, adesso non mi viene più il nome, gli artisti il cui pensiero parte da questi presupposti sanno dare significati alternativi a ciò che prendiamo come dati di fatto, proponendo modi diversi di metterli in relazione tra loro e di contestualizzarli. Il loro lavoro, animato da curiosità sconfinata e intelligenza di spirito, ci spinge a guardare con sospetto a tutte le categorie, i concetti e le soggettività che sono dati per indiscutibili. Ci invita a considerare alternative e punti di vista sconosciuti e a capire che l'ordine è ormai diventato presenza simultanea di diversi ordini. Con la porta sempre aperta, con le scarpe senza i lacci e con gli occhi sempre pronti, far le curve ma per finta, fare i salti, far la tinta, fare i conti. Auguri Alberta, cambia marcia vita, l'ingegnere e i suoi fumetti. Auguri Alberta, auguri Alberta. Sempre in moto si trasforma, sempre nuova non sta calma, sai che Alberta non si ferma. Vende i libri, scrive i libri, con la porta sempre aperta. Auguri Alberta, auguri Alberta. E dunque continuiamo questa sorta di preview della Biennale di Venezia in questa puntata registrata, vi ricordo, di Coxo Spaziale, guardando sul sito della Biennale, perché la Biennale comincerà appunto mercoledì prossimo e io appunto giovedì riuscirò a vedere un po' chi c'è e come funzionerà questa May You Live in Interesting Times. Intanto abbiamo la lista degli artisti, sto guardando un po' di nomi, purtroppo nel sito sono girati al contrario, nel senso che c'è cognome e nome, per cui abbiamo, che ne so, Stan Douglas, Jimmy Durham, Lara Favaretto, Cyprien Gagliard, Dominic Gonzalez Forrester, insomma di nomi grossi ce ne sono tanti. Thomas Saraceno, Ito Steyerl appena da pochissimo ha fatto una mostra molto interessante al Castello di Rivoli a Torino, e anzi ho avuto l'opportunità di sentire una giornata di un simposio sull'intelligenza artificiale, molto interessante anche quello. Dan Vo, che mi diceva Fabio Cavallucci che si pronuncia tipo Joe, una roba del genere comunque. Ralph Rugoff ha invitato solamente due artisti italiani a partecipare alla Biennale. Naturalmente ci sarà anche il Padiglione Italia, in cui Milovan Farronato invece ha invitato tre artisti italiani, che sono Chiara Fumai, artista scomparsa da poco, e poi Liliana Moro, e il terzo, che è un artista di cui io non avevo mai sentito parlare e di cui non mi ricordo il nome naturalmente, ma ve lo dirò magari dopo la prossima canzone. Ed è interessante anche il fatto che nessuno ne abbia mai sentito parlare non tanti addetti ai lavori avessero sentito parlare di questo artista prima di questa Biennale. C'è un articolo interessantissimo su Art Tribune di Daniele Capra, un bravissimo curatore e critico d'arte, che appunto parla del fatto della scarsa presenza italiana nella Biennale di quest'anno. Scrive Daniele: sono solo due gli artisti italiani che partecipano alla mostra internazionale curata da Ralph Rugoff. Sono pochi rispetto alla qualità dei nostri artisti. Perché? Che cosa ci manca? Le colpe di un sistema culturale incapace di fare le cose giuste. Scrive sempre Daniele: gli artisti invitati da Rugoff a partecipare alla sua mostra sono 79, di cui due italiani. Apriti cielo, non c'è pretesto migliore per il mondo del contemporaneo e per quello della cultura per dare sfogo alla consueta pratica dei cahiers de l'odolence. Scusate il mio scarsissimo francese, queste due parole non le so proprio pronunciare. Uno dei pochi momenti di reale solidarietà empatica tra i vari attori del sistema. E subito a lamentarci che siamo il paese organizzatore, che politicamente non è corretto, che non mancano in Italia artisti significativi, ma che anzi sono spesso più bravi degli altri, perché data la nostra situazione franciscana sanno fare tutto. Le reti sociali erano piene di osservazioni di questo tipo, e in parte condivisibili. La scelta di Rugoff, per chi ha ancora dubbi in merito, testimonia proprio quel che non vorremmo sapere. Nel mondo internazionale del contemporaneo non contiamo quasi un piffero, a parte le briciole e i casi isolati. Dopodiché, giustamente, Daniele ci racconta che le ragioni appunto sono quelle di una, cioè una questione culturale, ovvero la mancanza di una politica culturale riferita a ciò che è prodotto nel presente. La cultura in Italia significa cultura antica, quello che è contemporaneo, ma non solo nell'arte, ma anche nella musica, nel cinema, nel teatro, eccetera, eccetera, eccetera, viene completamente ignorato in questo paese. Dopodiché dice anche che il mondo dell'arte non è privo delle sue responsabilità. Dice non che il nostro mondo dell'arte, va detto, sia privo di colpe. Per le gallerie evidentemente meno oneroso lavorare con un artista supportato dalla propria nazione e che quindi presumibilmente avrà più facilmente mostre pubbliche, borse di studio, cataloghi. I curatori tendono a occuparsi di un artista estero per necessità e forse per calcolo. Promuovere un artista proveniente da un sistema forte è spesso una buona occasione per promuovere se stessi dal punto di vista delle relazioni e in generale nei paesi al di fuori dell'Italia, se si è bravi è più facile fare il salto. Molti collezionisti invece sono frequentemente esterofili fino al midollo, spesso perché avere a che fare con gallerie o artisti di altri paesi sembra dare prestigio alle proprie scelte, al proprio gusto, al proprio stile di vita. Quante volte abbiamo sentito dire a proposito artista internazionale per dire semplicemente che proviene da un'altra nazione? Succede quindi che il sistema americano aiuti gli artisti americani, quello francese i francesi, l'inglese gli inglesi, mentre gli italiani aiutano tutti gli altri. E poi consentiteci una domanda banale, secondo voi c'è stato qualcuno nel settore pubblico che ha individuato degli artisti significativi nel nostro paese da far conoscere a Rugoff e al suo staff e si è adoperato per organizzare degli studio visit facendosi semplicemente carico del costo dei viaggi come normalmente capita in tante nazioni? Siamo onesti, col nostro sistema culturale e col nostro mondo dell'arte, due artisti al padiglione internazionale sono quasi un miracolo. Queste sono le parole su Art Tribune di Daniele Capra e mi trova totalmente d'accordo. What's the worst thing that could happen? We found out that we don't quite fit, but on the flip side we could be just right. And sure there's the chance that we'll both end up broken and split, but that's my kind of risk. I'm not trying. E ritorniamo a parlare della Biennale di Venezia che appunto aprirà mercoledì prossimo per gli addetti ai lavori e sabato prossimo per il pubblico. E, una cosa, se io scrivo Biennale di Venezia sul mio Gmail trovo veramente migliaia di email. Perché naturalmente essendoci la Biennale, che è l'appuntamento internazionale d'arte più importante del mondo, se non proprio il più importante del mondo, comunque tra i più importanti del mondo, sicuramente il più importante in Italia in assoluto, trovo appunto migliaia di messaggi che mi dicono che ci sono un sacco di mostre in contemporanea all'inaugurazione della Biennale di Venezia. Io tutti gli anni naturalmente non riesco ad andare a vederne nessuna, perché uno si dovrebbe fermare veramente 2 settimane a Venezia per poter vedere tutte queste mostre e anche tutti i padiglioni esterni ai giardini o allo spazio della Biennale. Di solito riesco a vedere quello di Hong Kong perché è in strada per tornare verso la stazione, e spesso vado al padiglione dell'Azerbaigian perché è sempre molto interessante, ma comunque ci sono appunto 1 miliardo di eventi collaterali. Per esempio sto guardando questo Futuroma alla Fondazione Erzatter allo Spirito Santo che inaugura il 9, Lara Facco mi manda Building e Fondazione Querini Stalpaglia che fanno Roman Opalka, Dire il Tempo. Ah no, questo è a Milano però. Ah no, a Milano inaugurava il 4, che è oggi, e a Venezia, ah no, il 4 è domani, e a Venezia invece il 7. E comunque ci sono veramente un sacco di cose, e io ritengo che sia veramente una follia fare tutti questi eventi collaterali quando tutti in realtà sono a Venezia per la Biennale, ma è un altro discorso. Ascoltiamoci un altro pezzo che poi invece voglio andare a rispulciare. Se non sbaglio, Francesca Guerisoli ha intervistato Milo Vanfaronato su ATP Diary, che è questo sito fantastico dove ci sono un sacco di recensioni di quello che succede nel contemporaneo in Italia, molto Milan based, molto su Milano, però è sicuramente un sito da, per chi ama l'arte contemporanea, è un sito sicuramente da non mancare, atpdiary.com se non sbaglio. Comunque troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link, come al solito, di quello che vi sto raccontando stasera in questa sorta di pre-speciale Biennale di Venezia, così registrata. I got the job. classe nelle accademie di belle arti, le studentesse sono il 66% contro il 33% dei colleghi maschi, già nelle gallerie la loro presenza cala vertiginosamente al 25%, dato che scende al 19% nel caso delle mostre personali nelle istituzioni e arriva alla punta minima del 13% al Padiglione Italia della Biennale di Venezia. La presenza delle artiste nel mondo dell'arte viene mietuta man mano che si sale di grado verso la vetta della piramide. Questo è un piccolo estratto di un articolo di Francesca Guerisoli che si chiama Artiste malgrado tutto. Ed effettivamente è sempre stato così e continua ad essere così, anch'io me ne accorgo da docente dell'Accademia di Torino. La percentuale di studentesse è altissima rispetto a quella dei suoi colleghi maschi e dei loro colleghi maschi, ma quando si tratta di scegliere gli studenti per delle mostre, già il gap, se non diventa 50-50, diventa maggiore per quel che riguarda i maschi, e questo è un problema molto italiano. Infatti, per la prima volta nella storia della Biennale di Venezia, Ralf Rugoff, il curatore di quest'anno, ha scelto il 50% di artiste donne, da non confondere invece con il Padiglione Italia, che naturalmente nella Biennale c'è una mostra, per chi non c'è mai stato, nella Biennale di Venezia c'è una mostra comune, diciamo, con il tema, che in questo caso si chiama May You Live in Interesting Times, con un curatore, e poi ci sono tutti i vari padiglioni nazionali che sono padiglioni indipendenti, per cui ogni padiglione, ogni nazione ha un piccolo padiglione cioè piccolo, poi dipende, quello della Germania è piuttosto grande, eccetera, anche quello dell'Inghilterra, eccetera. Ogni padiglione ha il suo curatore, e il suo curatore decide se fare una mostra collettiva, una mostra personale, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui naturalmente quelle percentuali lì non possono essere contate. Vengono contate naturalmente nazione per nazione, e per quel che riguarda appunto il padiglione italiano, il Padiglione Italia della Biennale di Venezia, si parla di un 13% di presenza femminile rispetto a un 87% di presenza maschile. Presumo questo sia nella storia, non credo che sia, no, quest'anno gli artisti sono tre e sono, anzi, quest'anno c'è un po' di ribaltamento, perché gli artisti sono tre e due di queste sono donne. Naturalmente questo Artiste malgrado tutto, un articolo pubblicato su Alfa Beta 2 il 24 marzo di Francesca Guerisoli, ve lo linkerò come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com. Season's green. too late to be on time. You like to intimidate. Fuck up your life, lose all your friends. Fuck up your life, intimidate. Fuck up your life, intimidate. Fuck up your life, intimidate. Go on, intimidate. Lose all your friends. Fuck up your life. Fuck up your life. Fuck off then. Okay, good. Fuck off. Paesaggi spaventosi. L'angolo della menzione. Stavo quasi dimenticando l'angolo della menzione, perché domenica 5 maggio c'è l'ultimo appuntamento nell'ambito della mostra No Oreste No alla Project Room del Mambo. E, diari di un archivio impossibile. Questo è l'appuntamento dalle 15 alle 18 al Mambo con ingresso libero. E questo appuntamento racconta la storia di Oreste attraverso i documenti raccolti e conservati in questi anni da Emilio Fantin, Luigi Negro, Giancarlo Onorese e Cesare Pietro Iusti. Vi sono al suo interno materiali video, cartacei e digitali. I video in mostra sono stati gentilmente messi a disposizione dal mitico Mario Gorni e Zefferina Castoldi, il cui archivio Kerof custodisce, dopo averla digitalizzata, una mole importante di video di artisti italiani e internazionali degli ultimi 30 anni, ma una fondamentale costola di Oreste è stato andu.net, il sito curato da Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà, tra parentesi premiata ditta, che per più di un decennio è stato un punto di riferimento nel mondo dell'arte, ha ospitato nel nostro caso specifico il vero e proprio network che Oreste intesseva da una parte all'altra del continente. Come funzionano oggi questi archivi, qual è la loro fruibilità e soprattutto tra ricordo e oblio cosa resta e cosa sfugge al tempo? Sembra quasi una canzone di Gianni Togni, ma non perdetevi quest'ultimo appuntamento con una mostra fantastica che racconta appunto quello che è stato il progetto Oreste, e domenica dalle 15 alle 18 con ingresso libero al Mambo nella Project Room avrete appunto la possibilità di incontrare anche alcuni dei personaggi originali, ovvero non ancora deceduti, di questa avventura abbastanza trasversale. What's the worst thing that could happen? Ciao, sono Paola Stey e anch'io ascolto Coxo Spaziale. In compenso non ho trovato l'intervista a Milo Vanfarronato, colui che appunto cura quest'anno il Padiglione Italia, e dunque ne parleremo magari la settimana prossima, o se lo incontro all'inaugurazione della Biennale magari gli chiedo direttamente a lui che cosa ci presenta. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, la nostra Fedra Boscaro è chissà dove sarà, spero che in realtà in questo momento sia con me ad adiacenza al mio talk, e noi invece ci sentiamo la settimana prossima appunto per un piccolo speciale Biennale di Venezia direttamente da Venezia. Come al solito vi lascio con le parole finali del nostro egregio direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost.